Notte stanca di esser sola senza me. Calma imprevedibile, suicida e omicida d'anime. Come la prima volta, semplice, adorabile. Prima che il sole ritorni o da compiere, senza inibizioni e paure ti perdi in me. Faccia sospetta.